9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, con una certa anche sollecitudine nel chiedere scusa, perché a me 9 in punto sono le 9.11, le 9.12. Comunque, facciamola breve. La domanda l'avete sentita nel lancio, ve la rifaccio. Come mai nel nostro paese abbiamo questo, vedremo se è davvero così, ma questo dicono record di omicidi, di uomini che uccidono donne nelle famiglie? Come mai tanti uomini uccidono le loro mogli? Come mai non avviene nelle stesse proporzioni con le mogli che uccidono i mariti? Che cosa c'è? Una questione irrisolta di genere? C'è l'esplosione della famiglia italiana in corso? C'è una questione che riguarda il, diciamolo chiaro, sesso, cioè la maniera di continuare a concepire un rapporto di asservimento da parte dell'uomo nei confronti della donna, che se non viene compiaciuto esplode in questa maniera? Insomma, siete voi uomini in ascolto un po' troppo animali rispetto a come amate descrivervi? È una domanda delicata, ma la domanda viene sentendo e vedendo ogni giorno queste cose. Nel torinese 50 coltellate alla moglie, a Gela uccisa davanti alla figlia, delitti in famiglia, Italia prima in Europa. Voleva vedere le figlie di 6 e 7 anni anche a casa dei genitori, ovvero dei nonni paterni, ma le bambine non volevano e lui riteneva la moglie responsabile del rifiuto. Per questo Giampiero Prato, 38 anni, ha ucciso con 50 coltellate la moglie Cristina Rolle, di 33, davanti a una giovane assistente sociale atterrita. È accaduto a Collegno, nella sede dei servizi sociali, dove la coppia, divisa da quasi 2 anni, andava regolarmente per un sostegno a una separazione che finora era sembrata senza particolari problemi. Ha visto uccidere la madre, a sparare in un momento di follia il padre. La bambina di 2 anni appena è stata presa per mano dall'assassino e portata via in una fuga disperata. Lui, Nicola Incrobaia, 25 anni, non accettava l'idea della separazione, liti continue, gelosie. Lei, Emanuela Vallecchi, 21 anni appena, aveva già deciso. All'ennesimo diverbio, Incrobaia, un lavoro da guardia giurata, ha preso la pistola d'ordinanza, una calibro 9, e ha fatto fuoco per 5 volte, 3 colpi al torace, 2 sul braccio alzato nel tentativo di ripararsi. Incrobaia ha continuato a sparare anche quando lei, Emanuela, era già per terra. Le prime risposte, ma chiamate 800240024, perché oggi la mia non è una trasmissione a tesi, sono molto interessato di capire dagli ospiti che vi presento ora e da voi soprattutto che cosa nelle vostre teste si agita quando sentite questi lanci di notizie e li leggete sui giornali. Le prime risposte dagli sms: c'è chi dice con le leggi italiane tipo l'indulto conviene ucciderla la moglie piuttosto che mantenerla in caso di divorzio. Beh, insomma, altri che dicono invece mariti uccidono e mogli subiscono perché la nostra società e la nostra cultura vogliono così. Da una parte ci si educa formalmente alla conciliazione, costi quello che costi, piuttosto che all'autonomia, e cioè all'acquisizione di un rispetto per un percorso di vita rispettoso di sé e dell'altro. Questa è una interpretazione più sottile. Viviamo in una società che in teoria mette nel rispetto reciproco e nella condivisione invece che della divisione uno dei valori supremi, ma in questo buonismo dimentichiamo una forte educazione al rispetto di sé e degli altri, perché è dall'individualismo che nasce il rispetto degli altri, o è dal solidarismo che nasce il vero rispetto. Il solidarismo a parole, ci dice questo ascoltatore, diventa poi familismo amorale. Allora, dopo queste prime tesi, i nostri ospiti, ai quali chiediamo, nella loro esperienza professionale, per le loro convinzioni, per quello che hanno visto nell'evoluzione della società italiana in questi decenni, come mai questo tema della violenza maschile nelle famiglie è un tema che invece che regredire come uno dei sintomi di arretramento man mano che le condizioni culturali, sociali, reddito disponibile di benessere aumentano, invece resta persistente come un rumore di fondo tragico della vicenda collettiva italiana. I nostri ospiti di oggi sono innanzitutto Gian Ettore Gassani, che è il presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani. Buongiorno Gassani. Fabio Piacenti, che è il presidente dell'Eures, buongiorno. E Ritanna Armeni, editorialista del Riformista. Buongiorno Ritanna. Buongiorno. Io comincerei con Ritanna Armeni. La tua opinione in realtà cos'è? Questi maschi italiani continuano a essere delle sopravvivenze del passato, ma c'è davvero un problema italiano rispetto agli altri paesi? Guarda, secondo me il problema non è solo italiano, perché se si guardano i dati europei sulla violenza si scopre che, contrariamente a quanto noi pensiamo, poi non sono i popoli mediterranei, diciamo così, quelli dal sangue caldo ad ammazzare le donne, ma voglio dire, la violenza sulle donne è un fenomeno diffuso in Europa e diffusissimo nel nord dell'Europa, dove appunto noi ci stendiamo a pensare appunto alla civilissima Svezia, ai paesi nordici, eccetera. Non è quello. La risposta alla domanda che mi poni, te la sei data già tu all'inizio, in tutte queste motivazioni, una questione di genere, una questione di crisi della famiglia. Secondo me sono tutte queste cose insieme, ma ce n'è una soprattutto, che è questa, l'impreparazione degli uomini. Ecco, io la definisco così. Gli uomini, le donne hanno fatto un percorso molto difficile, ma ormai molto avanzato, Giannino, cioè un percorso che sta andando avanti nella scuola, nelle università, nel mercato del lavoro, nella ricerca, nello sport, eccetera. Gli uomini italiani forse, ecco qui c'è una differenza, sono più impreparati di altri uomini a questo percorso. Ne hanno una grandissima paura e non sanno capirlo bene, non sanno decifrarlo, e comunque è un percorso che li destabilizza moltissimo nei loro valori, per esempio familiari, quelli in cui c'è il marito e sotto il marito c'è la moglie, la quale appunto, come abbiamo visto dagli episodi di cronaca, no? Sono delle donne che poi invece a un certo punto liberamente scelgono o vogliono separarsi, e quindi cade un equilibrio sul quale gli uomini come dire, hanno fondato grandissima parte della loro identità. Il problema oggi, secondo me, non è tanto, lo dico da femminista storica, il problema oggi non è tanto il problema delle donne, è il problema degli uomini. Io temo che Ritan Armeni, dal mio modestissimo punto di vista, secondo me Ritan Armeni ci aiuta a capire una questione di fondo. Anche secondo me c'è un problema degli uomini, non italiani perché siamo in vetta alle classifiche, adesso approfondiamo questo, la cosa comparata, ma perché c'è una questione di ritardo nel comprendere ciò che nelle leggi, negli ordinamenti, nel dibattito pubblico, a parole la media dei maschi italiani, figuriamoci, ammette, ma nei fatti, cioè nel loro percorso di vita, nella loro esperienza di famiglia, nel posto di lavoro rispetto alle colleghe, a chi sta sopra e a chi sta sotto, poi davvero introiettarlo e comportarcisi con coerenza è un altro paio di maniche. Se capisco bene quello che dici, io su questo sono d'accordissimo. Sì, sì, e questo, oltre che, diciamo, un fatto proprio culturale profondo, perché cambiare la cultura e cambiare se stessi è molto più difficile che cambiare una legge. Esattamente, esattamente. Io devo dirvi la verità, a me, oramai sono 30 anni che lavoro, a me è capitato incessantemente, lo dico sempre, di uomini, ho avuto esperienza in politica, in istituzioni, poi nel giornalismo e così via, da uomini insospettabili che a parole ovviamente sul posto di lavoro, ma scherziamo, una donna è esattamente dotata degli stessi criteri di merito, di avanzamento, di esame su quello che sa fare per l'allocazione al miglior posto di lavoro. Io in 30 anni, in tutti i posti in cui ho lavorato, faccio eccezione per questo, ma sono collaboratore esterno, ho sempre, dovuto constatare che le prassi che vigevano erano di altro tipo, e mi state capendo, cioè nel senso che ciò che si chiedeva implicitamente sempre, a me, ripeto, è capitato sempre, era una impropria, indebita pressione volta a chiedere un tipo di rapporti, ma non sto parlando di sesso esplicito, che comunque ai maschi non si chiedono sul lavoro. A me è sempre capitato. Sarò l'eccezione io? Non credo. Però allora sentiamo un secondo con Gianetto Regassani, presidente dell'Associazione Matrimonialisti. Facciamo un secondo un focus sulle famiglie italiane, quello che ci dice l'esperienza, quella della giurisprudenza accumulata, quella dei numeri, delle separazioni, quelle dell'attinenza del fenomeno violenza rispetto a famiglia che non si tiene in piedi. Ma innanzitutto io sento di condividere in pieno l'analisi di prima della giornalista, perché credo che fondamentalmente in Italia ci sia una questione culturale che è quella che poi scatena tutta questa violenza. Non dimentichiamo un dato, che l'Italia è l'unico paese al mondo in cui fino a pochi anni fa esisteva il diritto d'onore, cioè c'era la licenza di uccidere. Però non c'è più. Ho capito, non c'è più, ma fino a qualche anno fa c'era. Significa che il fatto solo che nel nostro paese ci sia stata una norma così allucinante fa capire qual era poi la sensibilità del legislatore rispetto a quello che avveniva nella società, perché la legge in buona sostanza si sintonizza molto su quelli che sono gli usi e i costumi. Non c'è più, ma probabilmente nella testa di qualcuno c'è ancora. E allora il problema è soprattutto di carattere culturale, però io farei una distinzione tra quello che è il maschilismo nella società, nel mondo del lavoro, rispetto a quello che succede nelle famiglie, perché dobbiamo rilevare che la violenza in famiglia è reciproca fino a un certo punto, cioè fino a una certa soglia, le donne sono anche più violente degli uomini sulla quotidianità. Ovviamente l'uomo è geneticamente un assassino. Attenzione, lei ha detto una cosa sulla quale non sono d'accordo. Vabbè, però lei l'ha detta come naturaliter. Lei ha detto che l'uomo, in quanto portatore del suo cromosoma, è l'uomo può geneticamente portato più della donna all'assassino. Il gesto estremo appartiene al mondo maschile. Chiaramente, attenzione, io non sono né uno psicologo né un sociologo, no, sono soltanto un avvocato, quindi cerco di dare una chiave di lettura. No, però io la devo troppo, perché geneticamente non è così. Guarda. Se andiamo a guardare quante donne vengono uccise in Italia rispetto a quante sono uomini, d'accordo, ma possiamo porci il problema. La propensione dell'uomo alla lite, possiamo porci il problema se sia un plurimillenario adattamento culturale al ruolo svolto, ma che ci sia una componente genetica e dai tempi di Lombroso. No, c'è una componente, non so se definirla genetica o culturale. Indubbiamente io penso che una donna al potere prima di dichiarare guerra a uno Stato ci penserebbe mille volte, l'uomo no. Almeno questa è una mia opinione motivo personale. Motivo probabilmente per il quale servirebbe più statisti donne. Assolutamente sì, magari. Allora, il problema è questo, che c'è una violenza diffusa nelle famiglie italiane che non è sotto controllo, ci scivola dalle mani. Noi avvocati francamente non abbiamo alcuna possibilità di controllarla, perché manca la rete di controllo che è fatta dai centri antiviolenza, dai servizi sociali, dai mediatori familiari, dagli psicoterapeuti della coppia, che sono figure professionali fondamentali che vengono un po' messe ai margini del processo, perché nella maggioranza dei casi, quando succedono queste tragedie, si tratta di delitti annunciati, cioè di donne che avevano già sporto denunce, querele, avevano chiesto aiuto e poi alla fine sono state lasciate sole, perché chiaramente non si può pensare che l'avvocato e il magistrato possano risolvere i problemi. Noi siamo giuristi, per cui dal punto di vista del monitoraggio di una situazione o di un comportamento siamo le persone meno indicate, anzi probabilmente c'è anche una fetta di responsabilità da parte dell'ambiente forense e giudiziario in tutto questo. Perché? Perché in Italia si fa il diritto di famiglia senza una specializzazione, perché tolte poche, però io poche realtà. La interrompo ancora per dire, il caso dell'ultimo delitto di cui abbiamo sentito il lancio, questo efferato con le 50 coltellate a Collegno fuori Torino, lì l'assistenza c'era, erano di fronte a un assistente sociale e la questione era proprio quella dell'affidamento di una figlia e del mettersi d'accordo su gli orari e i giorni alla separazione, e di fronte a questa peraltro giovane, viene descritta molto giovane, non so quanto esperta, assistente sociale, avviene un delitto con 50 coltellate. Guardi, mi consenta, il problema non è che solo perché gli incontri erano protetti in un consultorio si può parlare di una protezione vera e propria per quella donna. Ci sono degli elementi indicatori di una violenza che può scattare, che può essere verificata attraverso una perizia psichiatrica. Certamente un assistente sociale da solo non può prevedere che quell'uomo può arrivare al gesto estremo, perché ci sono degli atteggiamenti e dei comportamenti che vanno decodificati. Quindi io credo che fondamentalmente manchi una cultura della famiglia. Una componente del diritto di famiglia deve essere la componente psichiatrica, mi pare di capire. E io sono d'accordo, visti i risultati, non è che dica di no. Io dico che gli avvocati devono fare un passo indietro e devono intervenire dopo, cioè quando c'è una separazione altamente conflittuale, prima bisogna preparare il terreno e poi si va a fare la causa. Invece che cosa succede in Italia? Che una persona presenta un ricorso, si va direttamente dal giudice, due persone che si odiano a morte per esempio devono avere l'affidamento condiviso. In 27 minuti, questa è la media di un'udienza presidenziale in Italia, il giudice deve decidere, utilizzando un prestampato, casa, affidamento e mantenimento. Dopodiché dice a questa coppia, adesso voi avete l'affidamento condiviso, arrivederci, ci vedremo fra 6-7 mesi. Cioè due persone che si odiano a morte, che non sono assolutamente controllate, queste due... Questa è come una carica a molla che poi fa alzare ulteriormente il livello. Io non sono un corporativo, quindi noi avvocati, ma probabilmente anche un po' tutto il sistema, lascia al destino, al proprio destino queste persone. Dobbiamo anche considerare una cosa, se mi consente giusto 30 secondi, quindi non dimentichiamo che le separazioni e i divorzi spesso producono delle povertà, producono la morte civile di molte persone. Guardi, questo la devo interrompere senza far andare oltre, perché torniamo poi sul punto, perché io sono, e lo dico per coloro che sono in ascolto, particolarmente seguito da quando ho fatto l'ultima puntata sulle separazioni dalle associazioni degli uomini separati, che dicono che io sottovaluto sempre la tragedia finanziaria in cui, per effetto della nostra giurisprudenza, gli uomini, quando si tratta di aggiungere al reddito precedente della moglie l'assegno di mantenimento dei figli, cadono per effetto della nostra giurisprudenza in materia. Bene, con Fabio Piacenti, un secondo, vogliamo chiarire questa questione delle statistiche comparate per capire bene di che cosa stiamo parlando, perché qui ogni tanto c'è il lancio di questa notizia, record dell'Italia, in realtà l'Italia di record, un vero record vero e proprio della violenza in famiglia non c'è, se guardando bene le statistiche, o no? Infatti non c'è, consideriamo che le statistiche comparate, in particolare in materia giudiziaria, sono complesse, andrebbero lette diciamo, con grande attenzione, anche considerando che non sempre esistono diciamo, fattispecie di reato inquadrate esattamente allo stesso modo, nemmeno per quanto riguarda l'omicidio. In generale noi non abbiamo per l'Italia, né nell'omicidio in generale né nel femminicidio, dove rientra per il 70% l'omicidio domestico, né per diciamo l'omicidio familiare, degli indici nazionali né più alti della media europea né più alti di paesi ad esempio come la Germania, l'Inghilterra o la Francia o la Spagna, quindi diciamo che siamo assolutamente in linea come fenomeno. Consideriamo ad esempio che in Inghilterra l'incidenza dell'omicidio familiare arriva al 43% sul totale degli omicidi, noi in Italia abbiamo valori intorno al 30%. In realtà l'allarme c'è ed è un allarme ricorrente per il fatto che se noi osserviamo diciamo, l'andamento delle statistiche nel medio-lungo periodo, abbiamo in Italia un decremento del fenomeno omicidiario nel suo complesso, che è sceso dal 90 a oggi da 1800 omicidi a circa 600, mentre l'omicidio all'interno del contesto familiare ha mantenuto sostanzialmente un andamento costante. Esatto. Quindi noi continuiamo ad avere quello che noi abbiamo chiamato lo zoccolo duro dell'omicidio familiare di circa 200 casi l'anno, peraltro con una diciamo ricorrenza ed una omogeneità nel tempo piuttosto solida, nel senso che noi abbiamo all'interno di questi 200 casi metà, quindi circa 100 che vengono all'interno della coppia, che rimane il contesto a massimo rischio, circa un quarto fra genitori e figli e il restante quarto all'interno delle altre relazioni familiari. Però anche qualcosa diciamo in termini di analisi mi sentirei di aggiungere. Quando noi parliamo dell'uomo, del perché l'uomo, è vero, noi abbiamo che nell'80% dei casi l'uomo ad uccidere la donna all'interno della famiglia e cioè forse circa il 10% è la donna. Però qui credo che occorrerebbe anche aprire una riflessione su quello che è culturalmente nel nostro paese il concetto di coppia e il concetto di matrimonio. Quando noi sappiamo che il principale evento omicidiario è quello legato al cosiddetto passionale o diciamo ai disturbi della sfera affettiva, sì, non dobbiamo dimenticare che in Italia diciamo per diciamo, giungere a un divorzio ci vogliono in media 7 anni. Ma questo però, mi scusi, non vedo l'attinenza col fatto che poi 8 volte su 10 è un uomo a uccidere, perché ci vogliono no, gli no, anni no, per entrambi sono, i coniugi. Ci sono 2 o 3 cose, noi sappiamo che l'uomo entra diciamo da un lato abbiamo l'analisi del ruolo maschile, sì, che è stata già ecco, fatta. Allora la interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità. Non è stata fatta ancora abbastanza, perché se io vedo i messaggi che mi arrivano e che in generale molti sono messaggi molto duri, che dicono la colpa di questa eccetera eccetera, ma queste donne italiane, ma in definitiva cosa vogliono, il testosterone libero, insomma diciamo ci sono molti messaggi in libertà che un po' mi deludono a dire la verità, però che secondo me ci devono riportare nella seconda parte a mettere questa questione del maschietto italiano un pochino sotto il microscopio, perché i numeri li abbiamo visti, e 8 volte su 10 la mano dell'uomo che uccide, che cos'è? Soffre di più nella famiglia l'uomo rispetto alla donna? Vogliamo scherzare? Ma non lo so, a me non sembra, però certo questo problema c'è. 9:34 minuti 25 secondi, eccoci tornati in studio. Ci stiamo ponendo la questione del come mai scendono gli omicidi in Italia negli anni, non scende la componente di quelli di genere, familiari, 8 volte su 10 è un uomo che uccide la sua compagna. Sono le leggi, il diritto di famiglia, le separazioni, la questione dei denari in capo al coniuge maschile per il mantenimento dei figli e della moglie, la molla, c'è una questione di violenza congenita addirittura nell'identità e nel genere maschile, ma però c'è chi continua a pensarlo. Altri nostri ascoltatori dicono, in definitiva però, se gli uomini italiani restano così più che altrove e sono più violenti nei gesti estremi, oltre c'è una certa soglia verso le loro compagne, sono sempre dei figli delle loro madri che li hanno cresciuti in questi valori. Punto questo che mi sembra interessante da affrontare. Altri dicono invece no, è una questione che c'è altrove e noi adesso la scopriamo ritualmente solo perché pensavamo che le violenze in Italia, queste sessuali, fossero solo degli immigrati comunitari. Invece no, c'è una componente italiana forte anche questo, ma questo riguarda più i media secondo me. Sentiamo un pochino di voi con le telefonate, iniziamo con Federico da Padova. Prego. Federico, dica. Salve. Io volevo portare, mia madre mi ha educato comunque in maniera corretta, non mi considero un violento. Mi sono separato 8 anni fa a Milano, ho 2 figlie che non vedo da 7 anni, mi sono trasferito a Padova, ho ricostituito una famiglia con altri 2 bambini, nel tentativo di cercare un punto di dialogo ho chiesto aiuto decine e decine di volte ai giudici, agli avvocati. Un tentativo di dialogo con la sua prima moglie? Con la mia prima moglie, nel tentativo poi di recuperare un rapporto con le ragazze che ormai hanno 18 e 16 anni. È stato praticamente impossibile, il senso etico degli avvocati è pressoché inesistente, cioè la conflittualità è alla base del loro reddito, per cui non gliene frega assolutamente nulla di cercare un punto di convergenza. I giudici sono incapaci, assolutamente incapaci di prendere in considerazione l'aspetto psicologico di una separazione. Le madri spesso e volentieri usano sistemi di relazione molto sottili per disintegrare il rapporto col padre. Il padre non ha nessuna possibilità di ritrovare un punto di dialogo con le figlie che vivono il dolore di una separazione, per cui non solo sono, come dire, condizionate nel loro pensiero da atteggiamenti subdoli della madre, ma ovviamente vivono il dolore e tendono a archiviarlo per non rivivere l'esperienza del padre che se n'è andato. Grazie Federico. La sua è una fotografia in cui i professionisti del diritto di famiglia sono sprovvisti delle armi necessarie per affrontare la delicatezza delle questioni interpersonali, anzi sono interessati al potenziamento della conflittualità, e diciamo che ripropone nella sua esperienza la questione che la donna attualmente tutelata per riequilibrare la storia millenaria che abbiamo alle spalle nella separazione e tutelata e premiata in giurisprudenza anche nell'affidamento dei figli, sia pur di fronte a nuove finestre di novità che sono entrate nel nostro ordinamento recentemente come condiviso, lei dice tutto questo spiega molte cose, però sì, tutto questo poi deve armare una mano in 8 casi su 10. Io me lo chiedo con grande rispetto verso l'esperienza di sofferenza della disintegrazione delle famiglie, però uccidere è uccidere e io continuo a non capirla questa cosa. Sentiamo Roberto da Roma, lei che pensa? Sì, buongiorno a tutti. Io sono un po' sulla stessa frequenza d'onda dell'ascoltatore che ha chiamato poco fa. Sicuramente nulla giustifica un omicidio, questi sono delitti chiaramente vanno al di là della ragione. Ma in certi casi credo che ci sia anche da un punto di vista giurisprudenziale ci siano delle grosse sviste, magari delle leggi fatte male o delle decisioni prese male, magari su. Stiamo sempre parlando della separazione diritto di famiglia, sì. Della separazione, chiaramente, sì. Ci sono certi diritti che talvolta vengono dati ingiustamente alle madri, che portano magari dei padri, i mariti, sull'orlo della disperazione. Perfetto, poi c'è chi perfetto. Chi grazie, grazie, grazie Roberto. Adesso ci porremo la questione se cambiare queste leggi, se la questione è che il diritto di famiglia attuale deve portare i maschi ad ammazzare. Ma io non lo so, però adesso ai nostri ospiti glielo chiederò. Letizia, per il momento l'unica telefonata che mi passano di una signora, Letizia della provincia di Milano, che ne pensa? Io sono Letizia e ascolto volentieri la sua trasmissione. Quello che manca a voi, agli uomini, non so se a lei personalmente, è l'avere a prendersi le responsabilità. Attenzione, non generalizzi troppo. No, no, quando gli uomini sono, sono messi davanti alle proprie responsabilità, su di tutto, non sono, sono inadeguati a prendere questo compito. Loro cosa fanno? La moglie giustamente le pressa e loro sbroccano, cosa fanno? Le uccidono, perché non sono stati educati a prendersi le responsabilità a, nel fallimento di un matrimonio, nell'educazione dei bambini. Loro pretendono e basta. Quando la moglie ha delle rivalse di dire aiutami, no, non sono inadeguati a questo compito, cosa fanno? Sbroccano e ammazzano. Io sono d'accordo con lei che ha detto che un ruolo importante ce l'hanno i genitori, le suocere, le suocere alcune volte educano i nostri uomini italiani ad essere dei mammoni, a non fare niente in casa. Invece noi donne storicamente siamo abituati ad arrangiarci sempre e comunque in qualsiasi situazione, e gli uomini di fronte a questo sbroccano, a questa nostra... Grazie Letizia, che ripropone la questione culturale, per così dire, più che quella delle cornici di legge, che comunque ha moltissimi sostenitori anche negli SMS, alcuni dei quali fanno anche notare però che oltre all'eventuale riequilibrio della tutela dei diritti all'atto della separazione nel sostegno dei redditi di livello precedente e per i figli, bisognerebbe anche pensare che poi in definitiva c'è una componente della solitudine delle persone rispetto alla quale nella famiglia il maschio, cioè il padre, il marito, spesso cade più vittima di quanto capiti invece alla moglie all'atto della separazione, che resta solidamente, più solidamente di lui, incardinata nel rapporto con i figli. Ritanna Armeni, dopo questa bella prima carrellata, bisogna modificarlo davvero il diritto di famiglia perché i maschi sono troppo poco tutelati e quindi diventano violenti per questo? Guardi Giannino, lei ha detto una cosa molto giusta, le leggi sono le leggi e spesso non sono adeguate, nel senso che per esempio io credo che oggi il rapporto tra uomo e donna sia diverso, però diciamo così che il momento in cui si ammazza, come il momento in cui ci si ammazza, come il suicidio, voglio dire, beh, implica qualcos'altro, non può essere soltanto la legge, perché non tutti quelli, perché non tutti quelli che sono sottoposti a quella legge poi ammazzano, no? Quindi voglio dire, evidentemente scatta qualcos'altro. Allora, secondo me la questione sta in quei dati che sono stati forniti. Gli omicidi, come dire, tendono a ridursi fortunatamente in questo paese, ma gli omicidi nella famiglia e soprattutto gli omicidi nella coppia invece rimangono. Quindi io insisterei molto su questo fatto che, guardi, anche le telefonate che ha ricevuto dimostrano, gli uomini sono, insisto, destabilizzati più delle donne, e lo sa perché? Perché anche per esempio poi quando si decide dell'affidamento dei figli o dell'assegno che l'uomo deve dare alla moglie, tutto questo mette in crisi una identità fortissima, che è l'identità che l'uomo ha costruito da secoli e, e continua a persistere in questi anni, quello in cui per esempio lui è il capo famiglia e dispone dei soldi. Beh, poi c'è una legge che dice no, di un pezzo di soldi non disponi più tu perché va a tua moglie. Tac, si rompe qualcosa. No? Si rompe qualcosa, come i figli vengono affidati alle donne. Io guardi, su questo possiamo iniziare il discorso, ma non è questo il punto oggi secondo me, e gli ascoltatori stanno deviando, gli ascoltatori maschi, il anche discorso. Secondo me, perché non vedo un nesso così diretto. Il discorso non è così, il discorso è perché a questo punto si uccide, se non perché c'è qualcosa di profondo che vuole ripristinare il vecchio equilibrio e lo ripristina, come dice l'ascoltatrice, sbroccando, perché poi a un certo punto si ripristina con la violenza, no? Con la violenza sulle donne. E allora ritorno sul concetto, forse sono un po' monotona, sul concetto precedente. Il problema è che tutto quello che sta avvenendo nel mondo, compreso i rapporti familiari, perché poi non sottovalutiamo che cos'è la famiglia, e lei l'ha detto all'inizio e poi ce lo siamo dimenticato nel corso della trasmissione, tutto quello che sta avvenendo mette gli uomini in grandissima difficoltà. Guardi, non li sto giustificando, lei lo può capire bene. Non li sto giustificando, sto cercando soltanto di capire il fenomeno. Sono in grandissima difficoltà perché si trovano di fronte a delle donne che pretendono delle cose, la separazione, che naturalmente, come dire, approfittano anche nelle separazioni di una legislazione che sulla tutela dei figli le protegge molto di più di quanto non protegga gli uomini. Questo è verissimo, perché le donne, forse per un fatto, come dire, anche questo di arretratezza, no? Le donne vengono considerate più degli uomini le madri, cioè quelle che si possono, che possono fare un lavoro di cura contrariamente ai padri. E gli uomini non hanno che da dimostrarlo, secondo me, che da pretenderlo, che possono fare anche loro un lavoro di cura. Io su questo sono molto spregiudicata, mi va benissimo che gli uomini lo pretendano, che si organizzino per pretenderlo, perché è un'assunzione di responsabilità utile. Però il punto fondamentale sta nel fatto che, leggi o non leggi, gli uomini non possono accettare la nuova libertà femminile. La nuova libertà femminile è un fatto ormai, come dire, è evidentissimo, sul quale non ci possono essere... No, è codificato, ma non fa parte del vissuto ancora introiettato. Il problema è che fa parte del vissuto delle donne. Ecco, non di quello degli uomini. Noi stiamo assistendo ad una conflittualità tra i sessi, perché la conflittualità tra i sessi si dimostra in tanti modi. Oggi si dimostra nel fatto che le donne, siccome sono più libere, ci sono persino delle leggi che proteggono, certo, questa loro libertà, mica dico di no, perché poi le leggi, io prima ho fatto un intervento come lei molto culturale, però le leggi non è che non siano importanti nel modificare una cultura. Lei pensi che cosa è stata la legge sul divorzio? Se non ci fosse stata la legge sul divorzio, oggi le donne non avrebbero questa possibilità in più. Quindi sono importanti. Però diciamo che di solito l'evoluzione di un ordinamento avviene più lentamente di quanto non venga introiettato nel corpo dei valori prevalenti di una società alcuni passi avanti. Da noi esiste ancora un fenomeno in cui l'ordinamento addirittura evolve in ritardo rispetto ad altri paesi, ma a distanza di decenni c'è ancora una forte difficoltà nelle masse, nei grandi numeri, ad adeguarsi a questo cambiamento culturale. Questo è il punto di fondo. Adesso la interrompo solo perché abbiamo un'informazione obbligata col minuto di circolazione stradale, poi torniamo. 9:47, sentiamo ancora qualche telefonata. Vittorio da Grosseto, prego Vittorio. Sì, buongiorno. Pronto? Rapido, ci dica rapidamente, prego. Sì, rapidamente, chi più ne ha più ne metta. Tutti conoscono i motivi, ma come si risolvono questi motivi? Come si risolvono? Per esempio, il divorzio stesso è stato un mezzo per poter risolvere queste tragedie. Le ha risolte in parte o meno o no? E questa è la mia domanda. Beh, insomma, adesso io le rispondo dal mio punto di vista. Io penso che io capisco chi è contrario al divorzio per questione di fede cattolica, per coerenza, eccetera. La mia opinione è che in un ordinamento civile la facoltà va prevista, è stata prevista ed è giusto prevederla, non obbliga nessuno, ma non, anche in questo caso è un istituto che consente una soluzione civile coerente ai tempi in cui viviamo. E non credo che per questo, siccome il divorzio non risolve i problemi di conflittualità, allora il divorzio abbia attinenza con armare una mano più maschile che femminile. Io la penso così. Carlo da Como, prego Carlo, come la pensa lei rapidamente? Sì, è una mia velocissima esperienza. Mi sono recato a ritirare i bambini come tribunale. Mi sono recato? Non ho capito. Mi sono recato facendo, sì, 200 chilometri per prendere i bambini dalla, sì, moglie dopo 15 giorni, come mi aspettava il tribunale. La moglie non me li ha dati, i bambini piangevano, chiamati i carabinieri, c'è stato un'udienza, oltre le 100 incestinate o archiviate, non lo so, hanno chiamato i carabinieri a testimoniare sul fatto, il giudice ha deciso che il caso non era successo, insomma non è stato praticamente, io ho rischiato la denuncia per diffamazione, per calunnia, io e anche i carabinieri di Parma, perché il fatto non sussisteva. Questa è un'esperienza mia successa, quindi a volte mi chiedo perché succedono certe cose. Va bene Carlo, anche lei ci dice che c'è una iniqua ripartizione delle tutele su questo punto del diritto di famiglia. E troppo poco vedo riflessioni sul punto che riguarda la proiezione dei ruoli sessuali, e questa io credo che sia invece una componente di fondo nell'atteggiamento maschile che spiega molte degli atteggiamenti psicologicamente estremi che portano soggetti anche non classicamente individuabili come affetti da sindrome e patologie estreme che possono sboccare nella violenza, che li portano poi improvvisamente anche a uccidere. Io credo che la componente delle aspettative, del ruolo all'interno del rapporto sessuale e di ciò che si attende, si proietta aspetta, magari in solitudine, le aspettative sessuali da una donna, la propria compagna, ma in generale anche dalle donne, credo che questa componente sia una componente molto forte in alcuni dei casi che ho approfondito di omicidio in famiglia di genere, cui c'entrano sempre tutte queste componenti di famiglia, ma ce n'è anche una che riguarda il sesso. Paola, Paola da Roma, lei che ne pensa? Buongiorno Giannino, intanto complimenti, che lei non ha solo antenne economiche, mi pare di aver capito che anche delle buone antenne culturali, ed è l'unico giornalista che ha fatto una trasmissione su quello che sta succedendo in questi giorni. Allora, una piccola provocazione forse, questo che abbiamo visto è il riflesso di una cosa che va molto molto più in là nella storia del genere umano, perché se riflettiamo bene, fino dagli albori, proprio dagli albori, lo stupro nei confronti di un sesso nei confronti di un altro è una cosa che sta in tutte le culture. No, ci sono i miti, i miti fondativi, insomma, a Occidente come a Oriente. È un mito fondativo, dal ratto delle Sabine al ratto di Europa. Non siamo più a quei tempi, è vero, ma gli archetipi sono una cosa che fonda identità, e allora da qualche parte, se c'è questo sfasamento per cui prima comunque le donne si rapivano, poi comunque nelle guerre, ma perché nella guerra ci deve essere lo stupro della donna del nemico? Ma la vogliamo fare questa riflessione? Io capisco il bottino di guerra, si prendono l'oro, si prendono le ricchezze, ma lo stupro della donna del nemico? Perché nelle vecchie concezioni se ne inquina la discendenza, questo è il punto, cioè gli si leva il diritto alla purezza della discendenza, questo era naturalmente il motivo per cui avveniva. Però detto tutto questo, a oggi lei dice è la persistenza di queste echi culturali di lungo periodo che ancora spiega i fenomeni con cui siamo alle prese, è questa la tesi, Paola? Lei ha parlato prima di testosterone che naviga nell'etere e di tutte le telefonate, abbiamo visto che tipo di telefonate sono arrivate, l'abbiamo visto, allora forse nell'evoluzione della specie i maschi sono un gradino di sotto, non hanno ancora capito che la riproduzione, il gesto riproduttivo, comunque il sesso è una cosa sganciata dalla relazione, dalla cura che bisogna avere per la relazione, dal rispetto per l'altro, ancora si lasciano guidare dalla violenza, dal testosterone o comunque dalla sopraffazione e dall'identità che si crea proprio perché io sono così, sono maschio, sono più forte, tu non puoi decidere, tu non te ne puoi andare, tu non puoi, io ho deciso che tu devi stare con me. Queste ultime vanno da un uomo di 50 anni che butta l'acido addosso a una donna che gli ha detto no, a quello che comunque l'ammazza davanti ai bambini. Davanti ai bambini, la libertà femminile che ci sta, perché è nell'ordine delle cose, si vede, lavoriamo, decidiamo, soffriamo, ci prendiamo cura di questo e di quello. Certo, poi ci stanno quelle che non fanno vedere i bambini per ricatto, che comunque li usano, ma sono anche loro figlie di quella mentalità per cui se tu sei l'uomo che procaccia il cibo, io sono quella che alla quale spettano i figli, e quindi il dominio sui figli è mio. Grazie Paola. Allora, in sintesi direi che ai maschi italiani farebbe meglio leggere alcune grandi figure, anch'esse fondative, voglio dire Antigone, tanto per essere chiari, la donna che afferma di fronte ai due fratelli, uno morto in coerenza del diritto del sangue, un altro in coerenza del diritto della città, che rifiuta l'ordine di Creonte di separare e adeguare semplicemente se stessa in quanto donna, sorella, potenziale madre, ha il diritto semplicemente codificato maschile, grande figura della civiltà del diritto in quanto donna. Poi certo anche un po' di letture di Fedra e di Ippolita che hanno a che vedere con l'irrazionale femminile, con l'irrazionale capace di violenza, ma per questo però capace di violenza sempre di fronte a un torto, a un tradimento, a un'iniquità, alla mancanza di rispetto, al disprezzo di cui l'uomo... Vi sto proponendo figure che hanno a che vedere con le classiche tragedie greche del V secolo, quindi no, non mi voglio allargare troppo. Voglio una rapidissima, 10 secondi a testa, risposta da Gianettore Gassani e da Fabio Piacenti. Gianettore Gassani, se le dicessero che bisogna modificarlo questo diritto di famiglia, lei da dove comincerebbe? 10 secondi, perché solo sulla violenza, voglio dire, che cosa può cambiare per portare meno omicidi maschili di donne? Guardi, 10 secondi secondi sono pochi, ma le posso dire semplicemente che a parte le leggi va cambiata anche la cultura giuridico-giudiziaria. Secondo me gli interventi telefonici non hanno offerto nessun contributo utile, perché qua stiamo parlando di omicidi e quindi dare delle giustificazioni agli omicidi è fuorviante, però esatto. Bisogna anche dire una cosa, che sicuramente gli uomini oggi, in molti casi, quando non ci sono i gesti estremi, sono delle vittime. Anche loro, perché quando noi scopriamo che tantissimi uomini che fanno impiegati, sono insegnanti, stanno alle mense dei poveri, il 25% degli ospiti, beh, anche questa è una piaga sociale che non può essere però messa minimamente in correlazione con questo. Ok, grazie Gassani. Risposta a chi mi dice basta con le tue pippe mentali, se ti levano i figli tu che fai? La mia risposta, caro ascoltatore, è che di certo non uccido, e se tu pensi di farlo, secondo me forse è meglio rinchiuderti prima. Piacenti, c'è una questione di nord e sud, molti ascoltatori ci dicono, è vero ancora che al sud accade più che al nord? No, assolutamente, l'omicidio familiare è un omicidio che è prevalentemente un omicidio che avviene nelle regioni del nord, dove per l'appunto la famiglia è più piccola, le dinamiche sono più forti. E soltanto una piccolissima considerazione, l'omicidio familiare non è una manifestazione di forza, è una manifestazione di grande debolezza. Perché quando si arriva ad uccidere, appunto, e non parliamo di patologia, non più di, come dire, un fatto giustificabile razionalmente e basta, si fa perché c'è una grande rottura identitaria, esatto. Una grande rottura emotiva. Grazie anche a Piacenti, che ci ha consentito di smentire gli ascoltatori che pensano che siano solo nelle aride terre del barbaro sud. Ci sono altre ragioni, ci sono gap da colmare e loro responsabilità, ma non sono gli ammazzatori rispetto ai civili del nord. Ecco, questo vorrei dirlo chiaro. Grazie a Gianetto Ragassani, a Fabio Piacenti, grazie tantissimo anche a Ritan Armeni, grazie a voi ascoltatori, in regia Filippo Aureggi e Alessandro Chiappini, ad Alessandro Marco Tulli in redazione, la linea al Giornale Radio, appuntamento con me a lunedì, che domani non ci sono, ma domani c'è alle 9 in punto, c'è il direttore Fabio. 9 in punto.